Hey. Berto Beat, Berto Beat, produzione, produzioni, 2D, Casarano Lecce, oh oh, 2D Peak, 2D, Bolzano, Bolzano, Nord Italy, Nord Italy. Io me ne sto con i piedi piantati per terra, perché troppa merda mi sporca le ali e le afferra. Certa zavorra, schiacciati sotterra, vogliono il sangue scorre, non la chiamano guerra. Tutto sto schifo mi ingolfa le arterie, tenetevi il lusso, preferisco le macerie. Sembra chiaro, amo quello che odiate, la merda che sputate ve la rido a palate. Ho rime come lime per segare via le sbarre di un regime che reprime, ma mi vorrebbe attrarre. Meno cime, più concime, mi vogliono distrarre, ma infine resto incline a massacrare barre. Di notte in distilleria, la mattina in infermeria, con la mia cavalleria assaggio in gioielleria, carico l'artiglieria, smerdi la biancheria. Made in Italy, una macelleria. 2D, musica per sordi, non per soldi, è che sono in molti a confondermi coi più balordi. In testa giù più fonzi e sensazioni forti, ma sai quanti stronzi ti vorrei vedere morti. Benvenuti in Italy, lotterie reality, dove vivi fulacciati, si va zero quality. Perciò adesso siediti, questo è il primo atto. 2D Berto Beat, quello che fatto è fatto. Benvenuti in Italy, fotografi e royalty, dove vivi da VIP, si va zero quality. Perciò adesso siediti, forse eri distratto. 2D Berto Beat, pronti per l'impatto. Sono nato soldato in un esercito di martiri, cresciuto con i sogni già chiusi nelle lapidi. M'han detto nella vita sarei tu regista, ma la telecamera è sull'autobomba di un terrorista. Sì, ma così non va, è tutto bla bla. Chi sta in città prima o poi spanda. Si sa, qua comanda solo la bamba. Cazzi, marrazzi, è un trans questa banda. 2D Peak, non un rapper, un sicario. La risposta è il fuoco, l'accendiamo, il milionario. Fuori per il rap, che è un suono straordinario. Ma il tuo è noia come scopare al missionario. Ti inculo sui quarti, la tua tipa succa. Il mio rap è così hardcore, puoi chiamarlo Kama Sutra. Trito rima il nitro, mentre la tua strofa è muta. Ma se rap il tuo ritrito, non pensare che ti nutra. Benvenuti in Italy, lotterie reality, dove vivi fulacciati, si va zero quality. Perciò adesso siediti, questo è il primo atto. 2D Berto Beat, quello che fatto è fatto. Benvenuti in Italy, fotografi e royalty, dove vivi da VIP, si va zero quality. Perciò adesso siediti, forse eri distratto. 2D Berto Beat, pronti per l'impatto.